in quel giorno, 7 agosto, ho visto che in porto avvicinarsi tanti persone, ma non sapevo che devo iniziare un nuovo esodio. La nave era in avaria perché era tornato dal lungo viaggio, ma le gente vogliono salire a bordo per trovare un migliore vita, sì. Hanno salito dalle cave di Ormeggiati, le turme delle gente erano di più di 15.000 persone a bordo. Lei non voleva partire, la costrinsero a partire? Sì, tante persone mi hanno costruito a riparare la nave. Molte persone con bambini, militari, donne, mi hanno forzato per far partire dalla nave. Come l'hanno forzata? La minacciavano? Era una terribile situazione. Sì, anche con armi, perché c'erano tante gente con armi a bordo, anche militari. Una delle persone con coltello mi ha messo il coltello in gola. Fai partire dalla nave o ti uccide.